Gianni, Antonello e tutti quelli della ruota che ne so chi sono. Ciao. Che fantasmi. Ciao, ciao Marco. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Dammi bene. Guarda, guarda, stanotte Antonello mi imbottisco di aspirina, spero di essere operativo domani. Ciao. Nel caso ti farò sapere. Ciao. Se ti metti di aspirina, sto tranquillo, perché te non ti sento. Marco ti sentirò. È meglio quello di a Gianni, che è meglio, a un certo punto. Te lo metterò davanti al coso. Ciao, ciucu ciucu. Ehi, a te, dimmi. E buonasera. Buonasera, Antone, ben sentito. Beh, allora è piccolo, trattore. Che arrivi da basso, che arrivi tu. E prega che ci entrambi. E vengo tutta la sera, già vedi, quello... Sai, sta facendo le ore piccole. Kappa, vabbè, fatto bene. Prima di dovere, quel piacere. Sei impegnato. Per il piacere non attacca a panni. Non attacca a panni. Allora, era tutto rimontato e glielo ho piazzato. Ma dove era questa attacca a panni? Trova a basso. Ho comprato stasera alle 5 e ha già finito l'altura, ha già finito. Il biglietto è secondo un paio di bravo, avanti a... Eia, mi sto mangiando un pacco di cracker. Ma li lasci che ti fanno ingrassare. Intanto morto sono, chi se ne frega? Boh, come si va a vedere su PC? Ai, ai, ai. No, io il cracker me ne mangio la sera. Quando mi metto il vicino mi ha preso un paio. Marco e mi mangio quelli salati, mi piacciono. E secondo te cosa sto mangiando io? Quelli salati. Bravo. E ma non ne voglio assai che ti mangiate la pressione. Lo so, mi ha già spaccato le... mi fa male l'occhio destro, hai capito? Quindi a un certo punto la colpa è la mia. Speriamo domani mattina che non sia così, ma mi fa male un parecchio, è come se la schiasse, hai capito? La pressione è oculare quella. Bravo, sì. È vero, che ce l'hai fatto. Ah, guardi, Tore, non se ne può fare in casa dell'ara che sta lì. Oh no, è così, purtroppo, è così. Sai che ti fanno male, che è che rimangono un battesimo. Sì. E pure a te mi fa gene male, di già ridi. Andiamo, andiamo, dai, dai. Lasci che ne mangi un pacco, non ti fa nulla, magari ne mangi un pacco, vanno da 20 cracker, da 20 confezioni. Vabbè, è così. E quindi tu hai in girella. Ma se no le girelle. Ma se non andiamo a picciare lo devi fare. Faccio tutto abbandonato io su. Ui. E anch'io no, io sono due anni che non ci vado. Mi avevo ingrassato le carne, mangiate, tutta la parte bene, tutto cazzo. E poi non ci sono andato. Anche io ho fatto così. Stai buttando a basso, vedete, il magazzino. Ed è... e li ho lasciati lì, chissà che non riesci a dorla. Ma e chi lo sa, magari capita qualche amico che dice io che andiamo a pescare, ci andiamo a pescare. Io lo sto lasciando pure quello, se non reso due trozze di manco mio. Ma io me lo devo ricomprare qualche po' di roba, me lo devo ricomprare. Perché vado quasi in onda. Poi io c'è tutta la cassetta pronta, chiudiamo i fatti, terminare i fatti. C'ho lenze, c'ho il filo elastico, c'è tutto qua. C'è la cassetta con tutta la roba io. Quando andavo pesava, perché pesava, faccio piombi, ave, tutto qua. Quella roba lì ce l'ho anch'io, qualche cosa già ce l'ho. Ma oh, devo rinnovare tutto, devo rinnovare. Non lo so, boh, se sì o no, non so se ci vado. Qui la lenza non ci guarda, a chi ma mi dica se il pesce grosso di Sittaglia. Che dice sì? Mi dica se il pesce grosso, ma arrivi a Mendai, si tronca tutto. Sì, ma arrivi a Mendai. Allora, una volta salta a Porto Torre, c'era uno pescando, c'erano dei granchini, e io avevo un gran culo. E mi ha detto, ma non è un gran culo, io ti do un granchio. Vabbè, no. L'ho dato, io ho messo il granchio, ho preso tutta la sera con il granchio, l'ho rimigliato un pesce. Oh, non ci crederai, tu. Ho lanciato, ho messo il segnalino, cazzo, basta il segnalino, prima di gol, tu mi sei uscito un cucciolino in mare. Mi colpo, ha dato una pirata a casa avvicinata, ho preso, io ho dato una ferrata, ma troppo forte deve essere. E l'ho portato a sera un pezzo e poi mi si è staccato. Cazzo, mi ha dato un crepo, e quello lì mi stava guardando come dire, cazzo, ma tutta la sera mi chiedi. Hai pigliato che su sole, boh, ti ha fatto la pirata, ha detto, beh, va mi mollo. Ma ti ha detto, arrivederci. No, tu, non è che sei andata subito, no? A metà, quasi arrivato, era a molo, quasi arrivato alla macchina e mi si è staccato. E invece non era attaccata a me, gli ho dato lo strappo troppo forte e gli ho tutta la bocca. Sicuramente non era attaccata bene, penso che l'hai presa sulla bocca appena appena e si è staccata. Ma lui se l'ho ratta, glielo sai come ti fanno i denti tutto il palazzo, tutto duro. Ma non ti ha lasciato nulla, no? No, no, ho lasciato l'aro pulito. Allora era attaccato a ganza da appena appena, Ida. Ha sputtato l'aro e sei andato. Alice, avanti, tu lo vai per scherzo. dove tutto, comandando... Insomma, cazzo, dimmi tutto. Già, non sei compreso nulla cosa ha detto. Stavo mangiando, stavo per affogare, ho detto. Siccome sto mangiando quei cracker, già lo sai, quelli che vendono lo spin, a un certo punto, salati. E io ti puoi mettere una più grossa vicino, scusa. C'è una pila vicino, ma cazzo, lui che mi posso affogare del tutto, no? Ehi, ma se stai affogato, basta che ti bevi un goccio di birra. Prima... Cosa ho fatto i 15 secondi, ma sei scemo sei, così cazzo mi trovo svolto in un'ora e mezzo, non sono mai matto, non sono mai matto, no. A un certo punto la bevo piano piano. Io vedi ti metto la tessia, io c'è un sorso, ma certo di mettere la tessia, vero? Avanti. Magna, ma no. Poi ti si invasi la banca, che è un coso ti si invasi, bebe. Io lo so, non dico da me, però, la sto mangiando piano piano, e la testa di capo, mi devo qualcosa di, siccome è così facile da ingoiare. Che lo sai, i cracker, quindi a un certo punto ci vuole qualcosa di liquido. Vai a bicchiere qualche cosa di liquido. Vabbè. Ce l'ho vicino a me. Quindi a un certo punto... Se ne sarà venuto 4 o 5 già. Non lo vedo, ma sarebbe. Aspetta. Tu capito? Aspetta 2 minuti, dobbiamo aprire le birre. Ecco qua. Aspetta, 2 secondi. Ecco qua. Adesso va bene, tutto a posto, sì. Ah, e lui sì, tu è che si mangia di greco, non lui. A me già ci va tutto bene. A te tutto bene, ma tu prima non è vicino. Ma se non c'è fatto di greco, cosa deve fare, secondo te? Beve acqua. Salute. Ai tempi le maiali si chiamavano sospiri. Lo so, non ti preoccupare. E quando era il 20 di Subaru? Tore! Sì, aia, certo. E mi sa che vi lascio e me ne vado a prendere le pastiglie. E mi faccio, sì, che devo fare. E rimane la sua cuore, che si è appena entrato. No, Giugana, mi si sa se arrendi rocce e buro. E addirittura, questi sono. Ma attraccato, da buon di tanto ma attraccato. Ecco cos'è. Oh già, dimmi una cosa gli hai messo per attaccarlo l'apparato in macchina? Con il cavetto. E quando hai messo il cavetto, cosa ci hai attaccato? Per il cavetto. Ma no, per la batteria, no, per dove sei in cielo. Alla radio con il cavetto suo, per attaccare il cavetto suo al cavo che c'è in macchina, cosa gli hai messo? Degli spinotti o tipo qualcosa in plastica a 2 attacchi? Sì, quello lì l'ho messo, quello praticamente unico che si attacca e si chiude. Allora mi tocca comprarmi un altro, perché uno non basta, perché lo devo attaccare all'alimentatore, quindi il cavo deve essere attaccato all'alimentatore e uno va attaccato alla radio. Ma se no tu puoi mettere anche un mammut. Ah, voglio buttare i vitelli. Ma se prima comprarmi un altro, ce l'ho uno. Però no, se devo staccarlo dall'alimentatore devo averne uno attaccato in macchina. Sì, ma il tuo non c'era lo spinotto dietro l'apparato, basta che stacchi lo spinotto dall'apparato e lo porti via. No, ma lo sai che l'hanno fatto con il congiunto fisso, l'hanno fatto con il cavo fisso. Ah, ci puoi mettere anche le bananine se vuoi, io c'avevo le bananine nell'altro. Ma fa modificarlo e mettergli l'attacco di quelli a tre. Io tolgo una parte che non adopero più, che non funziona, e quindi lo attacco qua. Vabbè, quindi tu qual è la migliore soluzione? Quella migliore che ti conviene a te. Io quello che ho, l'attacco non si vede nulla, è tutto nascosto. È tutto nascosto dietro il portaoggetti, dentro. Basta che io quello che appena glielo sfido. Già ti rubo io, però per il cofanetto che non si vede nulla. Poi ti si ruga, va fuori, quando lo devo trattare e non lo vedi. Quando è nascosto. Nell'astra io ce l'avevo lì, infatti non lo togliamo nemmeno nell'astra. Ce l'avevo sia l'amplificatore che l'apparato, tutto dentro il cassetto. Non si vede nulla, io ho fatto il buco dietro. Ho fatto passare il filo, si vedeva nulla. Io ci voglio fare io, direttamente, buonissimo, dovrei al garage e fare uscire il cappetto solo delle cose, del microfono. Ma fissalo con delle vigile, cose di modo che non si muova. O ci metti qualche cosa a fianco per non muoversi, se no parte male da una parte all'altra. Io gli avevo messo degli stracci, non l'avevo fissato, gli avevo messo degli stracci lateralmente e lo comprimevano di modo che, capito, che non si muovesse. E io gli metto il coso, va sopra il coso dei rischi, va, e da lì non si muove. Gli metto il suo libretto sopra della macchina e vede che non si muove. Adesso è maniera, di là lasciamo mangiare, se no qui a finire che si affoga, si abbia con noi. Infatti è così, purtroppo. Per me era a posto. Adesso in questi giorni gli prendo il capo e guardo se non la mia genere il capo dove posso attaccarlo direttamente. Sono attacco ai cosi della batteria che c'ha. Sono qua, non ti preoccupare. Le macchie. Non c'è anche la FD, mi ero molto in viaggio. Viaggio fa viaggio lungo, me la reggo con me. Sono qua, tranquillo. Ehi, arrivo. No, vabbè, io sto chiudendo, dai, stai a portare il cane. Tu già portato, dai. Io no. Sto portato le 9:30. Vabbè, già, dai, chiudo anche io. Se usi nel video la faccio gli amici lingue. Ciao, ci sentiamo, ciao Alessio, buona serata. Ehi, ciao altrettanto, stammi bene, buonanotte e buona sera a tutto. Ciao Ale, stammi bene, alla prossima, risentirci. D'accordo, alla prossima, ciao.